Il design, elaborato o minimalista che sia, è ovviamente al centro di questa lunghissima settimana milanese. Ma dietro e a volte anche dentro i bellissimi oggetti per casa, ufficio ed esterni esposti c'è anche tanta innovazione. Le aziende infatti non spendono soltanto per stupire e per produrre, ma anche per adeguarsi alle tecnologie più moderne, spesso, anzi quasi sempre, precorrendo i tempi. E anche quando un oggetto è caratterizzato almeno esteriormente da un incontro di poche linee e disegni puliti, il più delle volte ha alle spalle investimenti ingenti in termini di ricerca. Come spiega Vittorio Livi, creatore della Fiamma Vetro. Il nostro è un mestiere che non esisteva. Tutte le volte che andiamo avanti tecnologicamente, tutte le volte che ci arrivano dei progetti difficili, per noi l'innovazione è un obbligo e ce l'abbiamo nel DNA. Perché con il nostro materiale, facendo solo vetro, se non facciamo ricerca sia tecnologica che di design, non potremo andare avanti con la nostra azienda. Che si tratti di arredi in vetro curvato, come quelli dell'azienda pesarese, o di lampade o ancora di sedie da ufficio, insomma, sotto il vestito del design più curato, batte sempre un cuore pulsante di pura tecnica. Fabio Pisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.